Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Mettere a fuoco la voce permettendo di sentirla con maggiore chiarezza anche in ambienti rumorosi è insomma la speranza, il sogno in qualche caso di tante persone che soffrono di disturbi d'udito, che appunto sanno benissimo, fanno fatica a capire altre persone quando appena l'ambiente diventa un po' rumoroso. Ecco, a raggiungere questo obiettivo sono stati i fondatori di Acoesis, una startup che è nata da ricerche sviluppate dall'Istituto Italiano di Tecnologia all'interno di un progetto finanziato anche dalla regione Liguria. Questa startup è stata fondata da Luca Braida e Luca Giuliani proprio con l'obiettivo di portare sul mercato questa tecnologia. La startup appunto si chiama Acoesis e ne abbiamo qui in linea l'amministratore delegato nonché appunto ex ricercatore dell'IT, Luca Braida. Buonasera. Buonasera Melis, buonasera ai radioascoltatori. Allora, intanto le chiedo di descriverci questo oggetto che consente, diciamo, di mettere a fuoco la voce. Cosa vuol dire mettere a fuoco? In che senso? Vuol dire sentirla più chiaramente. L'oggetto è un paio di occhiali e quando lo si indossa basta guardare la persona che si ha di fronte per sentire la sua voce più chiaramente. Ecco, perché l'oggetto appunto mette a fuoco il suono che arriva dalla direzione in cui si sta guardando, in cui sono rivolti gli occhiali, per la verità. È proprio così, infatti l'idea è quella di permettere a una persona di scegliere in un ambiente rumoroso la persona che si vuole ascoltare. Immaginiamo una tipica cena italiana, per esempio, no? Ci troviamo seduti intorno al tavolo, se dobbiamo parlare con un'altra persona, gli altri... i nostri commensali, che come noi cercheranno di parlare con la persona più lontana da sé, no? Fanno rumore e invece noi così sentiamo più alta la voce della persona che stiamo guardando. Esattamente, poi chiaramente volgendo poi lo sguardo a un'altra persona è possibile indirizzarsi a un'altra persona. Certo. Immaginiamoci di avere in mano una torcia che invece della luce ha il suono, una sorta di torcia acustica che crea una zona speciale di fronte a noi dalla quale tutto ciò che osserviamo si può sentire più chiaramente. E questo dà il grosso vantaggio di diminuire il rumore di fondo anche quando questo è rappresentato dalle voci delle altre persone che in quel momento ci stanno disturbando perché sono voci che vengono di fianco a noi o dietro di noi. Questo è il tipico scenario che accade ad esempio al ristorante, alla pizzeria, in luoghi di lavoro, rumorosi, oppure nei luoghi dove pur avendo un udito integro l'audio è messo a dura prova. Si pensi solamente a quando bisogna ascoltare una persona che sta a 3-4 metri da noi perché appunto dobbiamo stare distanti da quella persona o quando non capiamo bene quello che dice una persona perché ha una mascherina. Ci sono veramente tante situazioni in cui mettere a fuoco la voce è veramente un valore aggiunto. Ecco, questo come avviene? Intanto questi occhiali naturalmente sono degli occhiali da vista, quindi che possono incorporare le lenti di cui ha bisogno, mi sembra ovvio, no? La persona che li indossa, però hanno tutta una dotazione tecnologica. Una cosa ovvia è che hanno degli auricolari incorporati. Certamente, siccome vogliamo selezionare l'informazione che ci è più utile, cioè la voce della persona che sta di fronte, l'occhiale è un normalissimo occhiale da vista, si possono montare le lenti da vista o anche da sole, quindi risponde a tutte le normative del mondo dell'occhialeria, però in più a questo, diciamo, tocco magico del mondo del suono, quindi ospita degli auricolari che se indossati permettono di sentire i suoni con maggiore chiarezza se provengono diciamo di fronte. Quindi chi indosserà questi occhiali e si trova in un ambiente sfidante appunto di vista del suono potrà indossare gli auricolari, quando invece si troverà in un ambiente che non richiede questa funzione speciale farà riposare gli auricolari lungo le stanghette dell'occhiale e userà l'occhiale come un normalissimo occhiale da vista. Ecco, com'è possibile che questo occhiale riesca a mettere a fuoco il suono? Dove sta, così in termini molto semplici, il trucco? Il trucco sta nel disporre dentro la scocca dell'occhiale diversi microfoni Grazie al fatto che sono disposti a varie distanze gli uni dagli altri e grazie al fatto che si trovano in punti diversi, usandoli tutti insieme è possibile proprio creare una sorta di antenna direzionale che rende il nostro udito direzionale. Questa cosa non è possibile se, ad esempio, i sensori sono messi in uno spazio molto piccolo, che è il caso, ad esempio, degli apparecchi acustici. Sfruttando tutta la superficie dell'occhiale, trasformiamo l'occhiale in una sorta di antenna direzionale che ci permette appunto di mettere a fuoco la voce dove vogliamo, in questo caso di fronte. Possono essere accoppiati con gli apparecchi acustici che le persone già utilizzano? La risposta è sì. Il primo prodotto sul mercato sarà un dispositivo con cuffiette, quindi che si indirizza a persone o che ci sentono bene o che hanno lievi problemi di udito, quindi parliamo di un target over 40, over 50. Però abbiamo già dimostrato con due studi scientifici che il lavoro che fa gli occhiali è diverso da quello che fa un apparecchio acustico. Quindi, in pratica, per semplificare, l'occhiale ci aiuta a selezionare lo spazio. E l'apparecchio aiuta la persona a compensare le perdite uditive, sono due cose estremamente diverse. E quindi l'occhiale può lavorare da solo con persone con ipoacusia lieve o assente, o eventualmente lavorare insieme aiutando l'apparecchio acustico, e questo sarà, diciamo, uno dei prodotti futuri della startup. Senta Braida, a che punto siete? Anche perché immagino che poi ci sia bisogno, come dire, di fare anche i conti con l'aspetto modaiolo. Sì, stiamo sviluppando gli ultimi prototipi, prevediamo di uscire sul mercato entro fine anno, non con un solo tipo di occhiale, ma con diversi modelli per andare incontro anche ad esigenze di estetica, quindi in fatto di modelli, taglie, colori. Questo perché chiaramente un occhiale, è un oggetto che oltre a essere funzionale nel nostro caso deve anche essere bello. Va bene, grazie allora Luca Braida, in bocca al lupo. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. E allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento con Smart City sempre domani qui su Radio 24. Buona serata.